Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ti sto aspettando da mezz'ora. Scusa, mi ha fermato la maestra delle elementari di Filippo. Ti ricordi, era tanto carina. Adesso è in pensione. Abbiamo iniziato a chiacchierare e una parola tira l'altra. E si è fatto tardi. Tu l'orologio non lo porti? Ma non hai sentito che ti si seccava la lingua? Non fare lo spiritoso, però adesso che me lo dici, hai ragione, mi è venuta sete. Accompagnami. E voi? Bevete solo quando avete sete o bevete indipendentemente dallo stimolo che avvertite? Sapreste dirmi in media quanta acqua bevete nel corso di una giornata? Proviamo a pensarci, quantifichiamo i bicchieri, o se preferite andiamo a bottiglie o bottigliette, e aggiungiamo un altro dettaglio. Cerchiamo di capire se e in quale momento della giornata beviamo di più. Al mattino, dopo pranzo, ai pasti, verso sera. 800 24 0024. Io stavo cercando te, tu sei il contabile! Sì, gliel'ho appena detto, sì. Tu te ne intendi di conti? Di bilanci, sì? Eh beh, certo, è il mio mestiere e non per dire sono anche parecchio bravo, sì. Perfetto! Io arrivo alla fine del mese e ho speso più di quello che ho guadagnato. Tu mi devi fare una tabella dove ci scrivi su quello che ho speso e quello che ho guadagnato. Anche noi proviamo a fare un bilancio delle entrate e delle uscite, di quanto beviamo e di quanto eliminiamo. L'acqua, lo sappiamo, per noi è indispensabile, non esiste una parte di noi, del nostro organismo, che può farne a meno. In linea con noi abbiamo il professor Giorgio Battaglia. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e ai nostri radioascoltatori. Primario di nefrologia all'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Professore, se il nostro organismo è una macchina, l'acqua per certi versi, anche se non produce energia, naturalmente è la sua benzina, perché la fa funzionare. Certo, noi dobbiamo pensare che siamo degli individui acquatici, veniamo dall'oceano. E circa l'80% siamo fatti di acqua, tutto funziona perché noi siamo dentro una piscina. Dobbiamo immaginare che tutte le nostre funzioni avvengono come se fossimo dentro una piscina. Tutto è dissolto dentro questa piscina, dai sali all'energia, ai mitocondri che sviluppano energia intracellulare, tutto all'interno di un contesto di acqua. L'acqua è il nostro ambiente, la nostra benzina, la nostra energia, il nostro movimento che ci fa stare su questa terra e non ci fa annegare. Azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere nei tuoi occhi. Acqua naturale minerale del rubinetto a temperatura ambiente o più fredda, da bere magari a piccoli sorsi con l'aggiunta di erbe in forma di tisana. Sciogliamo gli indugi, non aspettiamo di avere sete per bere, ma sciogliamo anche, già che ci siamo, qualche dubbio sull'acqua con il nostro vero e falso. Ci aiuta il dottor Andrea Ghiselli, ricercatore dell'IRAN, l'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione. Dottor Ghiselli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Dottor Ghiselli, prima di cominciare il nostro vero e falso, a che quota di bicchieri, bottigliette, bottiglie è? Sono le 11:14, quant'acqua ha bevuto? Ma, diciamo 500-600, compresa anche le bevande della mattina come il latte. Perché noi beviamo assumendo i liquidi, come ad esempio anche lei ricordava il latte, ma l'acqua la prendiamo anche dagli alimenti. Soprattutto quelli vegetali, no? Frutta e verdura sono ricchissimi di acqua. Quindi lei, dottor Ghiselli, è già a buon punto? Abbastanza, sì. Allora, bello idratato e fresco, perché serve anche l'acqua, no? Per essere pronti, per avere un cervello pronto e vivace. Andiamo con la nostra... Per rispondere alle domande. Vero? Andiamo al nostro vero e falso. L'acqua va bevuta lontano dai pasti. Vero o falso? Ma è falsissimo. È una delle cose più false. L'acqua deve essere bevuta durante i pasti, perché serve non solo per deglutire meglio gli alimenti, ma anche per diluirli e permettere una più facile digestione ed un più facile assorbimento. Bere molta acqua provoca ritenzione idrica. Vero o falso? Falsissimo anche questo. Bere molta acqua facilita anzi la fuoriuscita di liquidi, la perdita di liquidi, perché l'acqua scaccia l'altra acqua che viene depositata spesso se uno mangia troppo salato oppure troppo condito. Quindi insomma, più acqua beviamo, più la ritenzione idrica scompare. Il calcio presente nell'acqua è assorbito dal nostro organismo. Vero o falso? Questo è vero. Il calcio presente nell'acqua viene assorbito perfettamente dal nostro organismo. Certamente il calcio presente in alcuni alimenti come nei latticini è assorbito in maniera migliore perché ci sono delle molecole che ne facilitano l'assorbimento, ma il calcio nell'acqua ha una disponibilità molto vicina a quella del latte. Professor Battaglia, questa la chiedo a lei. È vero o no che il calcio presente nell'acqua favorisce la formazione dei calcoli renali a proposito di calcio? È abbastanza vero, poi siamo in una stagione calda, esposti al sole, perché è da aggiungere che per essere assorbito il calcio dalle nostre ossa serve la vitamina D. La vitamina D è una vitamina che viene attivata dal sole. È classico quando noi torniamo dalla nostra vacanza nel weekend o del nostro viaggio, quando siamo stati troppo esposti al sole, arrivano i pazienti con la colica renale, perché se noi prendiamo troppo sole, attiviamo troppo la vitamina D, invece di fare assorbire questo calcio, noi lo sciogliamo dentro il nostro sangue e quindi i nostri reni, che sono il nostro filtro, gli arriva questo calcio che è disciolto nel nostro sangue. E quindi rendono le urine ricche di calcio e quindi facilmente si formano questi calcoli. Attenzione d'estate a stare troppo al sole, perché diminuiamo l'assorbimento di calcio, cioè c'è un effetto paradosso, troppo sole, troppa attivazione di vitamina D che non fa assorbire il calcio e non lo fa fissare nelle nostre ossa. Andiamo alla quarta domanda del nostro vero e falso col dottor Ghiselli. Bere acqua gassata aumenta nei soggetti predisposti il gonfiore addominale. Vero o falso? Falso. L'acqua gassata, le bollicine dell'acqua, insomma, vengono mandate via col benefico ruttino e non danno certamente gonfiore addominale. Dottor Ghiselli, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi. Buongiorno. Bene, adesso che ne sappiamo di più, una domanda per voi. Abbiamo detto che siamo fatti, professor Battaglia, 75-80% di acqua? Sì, all'incirca. Noi siamo degli individui acquatici, siamo quasi tutta acqua. È solo, diciamo così, un incidente che abbiamo oltre l'acqua, altre cose. Ma le ossa ne contengono di acqua? E se sì, quanta? Tre opzioni. Le ossa non contengono acqua. Ne contengono circa il 10%, ne contengono circa il 30%. Chiamate 800 24 0024, rispondete e alla prima risposta esatta un cofanetto Sugar Box per provare le ultime tendenze del settore bellezza. 800 24 0024. Salvatore, buongiorno, ci chiama da Caserta. Buongiorno. Salve, buongiorno. Eccoci qua, mi dica. Senta, volevo fare una domanda agli ospiti per il fatto dell'acqua. Sì, preferibile bere, io bevo molta acqua durante i pasti principali, ecco. È preferibile bere molta acqua gassata o naturale, fa lo stesso? Questo volevo. Dal nostro vero e falso viene fuori che ciascuno può bere l'acqua che più gli piace. Ma professor Battaglia, vuole aggiungere un dettaglio? Certo, io consiglio, specialmente d'estate, di bere acqua gassata. È il miglior disinfettante intestinale. Noi mangiamo molto fuori, mangiamo all'aria aperta, quindi che un quantitativo di CO2, che è il gas che è sciolto nell'acqua, ci serve a disinfettare il nostro intestino. Io aggiungerei un po' di acqua gassata durante il giorno. 800 24 0024 se volete con noi fare una sorta di bilancio delle entrate e delle uscite. L'acqua la introduciamo, naturalmente l'acqua poi attraverso l'urina, le feci, il sudore la rilasciamo, ma anche l'acqua la possiamo trattenere. Professor Battaglia, nell'attesa della risposta dei nostri ascoltatori che sono invitati anche a rispondere al nostro quizzettone, come faccio a capire se assumo la giusta quantità d'acqua? Ma intanto in questa stagione non meno di 1,5 litri di acqua deve essere bevuto lungo l'arco della giornata. Quindi il professor Ghiselli certamente era un terzo del suo cammino giornaliero, ne deve fare strada per raggiungere la quota di acqua che il nostro organismo ha bisogno, perché come diceva lei il sudore in questo momento che ci aiuta a termoregolare, cioè a mantenere la temperatura costante dentro il nostro organismo e a non farla salire troppo, scendere troppo, sicché i nostri meccanismi che ci sono all'interno cominciano ad impazzire e non funzionare bene. E, dicevo, per termoregolare abbiamo bisogno di acqua che raffredda tutte le cellule che lavorano e producono energia. Quindi in questo momento bisogna bere un pochino di più di acqua, circa 300-400 cc in più che è la quota di sudore che noi eliminiamo lungo la nostra giornata quando le temperature esterne aumentano. Poi quando ci svegliamo al mattino e sotto gli occhi vediamo un poco più gonfio, le caviglie che cominciano a gonfiare, quello è il segno che cominciamo a ritenere acqua. Ma che, diciamo così, durante la gravidanza o durante il ciclo mestruale delle donne o durante la stazione estiva potrebbe anche risolversi in una leggera ritenzione che rientra nell'aspetto fisiologico della nostra vita quotidiana. Se poi questo diventa costante, non ci possiamo più mettere le nostre scarpe al mattino perché i nostri piedi sono relativamente gonfi appena ci alziamo, se il nostro viso comincia ad essere non perfettamente come le nostre foto sulla carta d'identità, a quel punto che sono sempre terribili. Non so lei che foto abbia, dottore, ma io quando mi chiedono la carta d'identità dico sempre vuole spaventarsi, eccola. Ma professor Battaglia, un altro buon indicatore è anche la quantità di urine, il colore delle nostre urine, vero? E noi ci dobbiamo cominciare ad abituare a guardare la nostra pipì. Per esempio, urine che i medici per fare spaventare i loro pazienti dicono ma sono ipercromiche le sue urine, cioè sono molto colorate, sono un giallo ben intenso. Quello significa che le nostre urine sono concentrate e il nostro rene ci sta dicendo senti amico mio, forse devi bere un poco di più. O nello stesso tempo, se noi abbiamo queste urine perfettamente colorate, ma nello stesso tempo che cominciamo a urinare poco durante la giornata, quello è un segno che noi stiamo ritenendo liquidi. Quindi in queste puntate in cui vogliamo fare un bilancio, vogliamo andare a cercare di capire quanta acqua beviamo, quanta acqua eliminiamo? Io ho chiesto qual è il numero dei bicchieri, delle bottigliette, possiamo dire, assumete durante la giornata, sottolineando che i liquidi vengono assunti anche con gli alimenti, ma adesso noi andiamo di liquidi. Potremmo anche chiedere agli ascoltatori quante volte fanno la pipì e di che colore è la loro pipì. 11 24 800 24 0024, a proposito di pipì, mi scrive un'ascoltatrice, Daniela, io evito di bere, possibilmente, perché mi scappa spesso la pipì e se bevo sono rovinata. Professor Battaglia, lei che è un nefrologo, salta sulla sedia quanto sente queste cose. Certo, perché quello o è un segno di un'infezione delle vie urinarie o di un meccanismo per cui non ha il controllo della minzione quando si riempie la vescica. Io a quel punto mi rivolgerei al medico di famiglia ponendogli la domanda e sicuramente troverà un rimedio. Non è normale che noi abbiamo, si dice, un'impellenza a fare pipì quando noi beviamo. Non è un aspetto della nostra fisiologia. La nostra piscina, i nostri meccanismi della nostra piscina interna non funzionano perfettamente, quindi dobbiamo andare a regolarizzare qualche meccanismo. Quindi non possiamo pensare bevo meno per non fare pipì, perché sennò mi trovo in imbarazzo, magari sono in giro, non trovo la toilette, o anche, come mi stanno scrivendo alcuni, sudo tantissimo e mi fa grande imbarazzo avere tutto il viso imperlato di sudore. Che cosa faccio? Riduco un po' l'acqua. Daniele, buongiorno da Bologna, 800 24 00 24. Daniele, buongiorno. Eccola qua. Sì. Quanta acqua ha bevuto oggi? Acqua, liquidi? Io veramente bevo quel litro e mezzo d'acqua, però mi succede che con un nulla io ho una grande sudorazione, comincio a imperlarmi la fronte facendo anche dei piccoli sforzi, quindi devo capire se è una questione di compensazione di liquidi che devo aumentare, devo diminuire, visto che il sudore secondo voi è una compensazione del calore interno verso l'esterno. Ecco, questa è un po' la mia domanda. Professor Battaglia. Ma lì dico, non è il problema di ridurre i liquidi per non sudare, bisogna vedere che cosa mangia e quant'è la sua pressione interna. Sono dei meccanismi talmente perfetti i nostri meccanismi termoregolatori, che non sono soltanto attivati dalla quantità di acqua che viene ingerita, ma come vengono eliminate le nostre tossine. Il sudore elimina le nostre tossine, probabilmente noi ingeriamo troppe cose e il sudore ci serve per eliminare quelle troppe cose, quindi quella tipicità di quel sudore, probabilmente c'è un errore nella nostra alimentazione. Roberto dalla provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, benvenuto. Grazie. Ci racconti. Allora, niente, io ho 65 anni, bevo regolarmente 2 litri di acqua al giorno. Sì. Solo che a me l'acqua così com'è non piace, non bevo vino, e aggiungo del succo di limone. Il succo di limone che io aggiungo non è limone spremuto da limone... da limone fresco, ma lo prendo al supermercato in bottiglie da 1 litro dove c'è scritto succo di limone 100%. Perché fa questo, Roberto? Proprio per il gusto dell'acqua. Sì, perché il limone, spremere il limone, no, è di corsa, non ha tempo. Sì, faccio prima. Poi ci sono i semini. Poi la preparo, eccetera. Dunque, io ho letto però nella bottiglia che ci sono i solfiti, come mettono nel vino. Sì. Allora io volevo chiedere, innanzitutto, se i solfiti e se questo tipo di bevanda mi può far male. Poi un'altra cosa, visto che io ho avuto in passato calcoli ai reni, e regolarmente ogni 10 anni facevo un calcolo, due, soffrivo molto. Da un po' di tempo questa parte, non so se sia dovuto al limone sciolto nell'acqua, quel tipo di limone o meno, insomma, sta meglio, ecco. Non li faccio non più. Non li fa più. Allora, professor Battaglia, andiamo sul limone. Ne abbiamo parlato tante volte, è un amico della nostra salute, lei l'ha consigliato più volte, non solo perché viene dalla terra dove ci sono i migliori limoni, ma professore, perché? Ma il nostro radioascoltatore dice molto bene, lui non ha più sintomi perché ingerendo il limone con l'acqua ingerisce citrati. I citrati sono una componente che non fa soprasaturare le nostre urine, tecnicamente, cioè non fa formare i calcoli, quindi è una buona norma. E poi d'estate, io vivo in una terra che di origine gli arabi hanno portato, che per dissetarsi, ci sono i nostri chioschetti nelle nostre città, in cui le persone quando si dissetano vanno a prendere sels, limone e un po' di sale, che è la miglior bevanda per reintegrare il nostro organismo, la nostra piscina salata, e il nostro organismo non fa che dirci grazie per quello che stiamo facendo. Certamente d'estate non dobbiamo andare nei fast food a mangiare salato, insaccati, patatine o fritti, o anche dolci, perché mangiando dolci noi non facciamo che attivare l'insulina fa ritenere liquidi. Noi dobbiamo bere molta acqua, ma anche mangiare molta frutta, lo diceva l'esperto prima, che la frutta, ce ne sono alcune frutta di stagione, tipo il melone, tipo l'uva, che sono dei diuretici naturali che ci fanno eliminare l'acqua in eccesso. Quindi chioschetti a Catania ne ho provati anch'io qualcuno, ottimi. Acqua, salsa, limone e un po' di sale? Un pizzichino di sale, non troppo, non esagerate, perché la nostra alimentazione è particolarmente ricca. Riduciamolo dalla dieta, dagli alimenti, per aggiungerne un pezzettino. Per quanto riguarda i solfiti, l'indicazione immagino che sia quella di utilizzare il limone fresco. Ne abbiamo, vero professore? Poi la natura ce ne regala tanto. Perché, perché non approfittare? Professore, noi beviamo, ma a volte abbiamo la sensazione che il nostro corpo non elimina l'acqua in modo corretto, la trattenga. Sospetto che ci viene ad esempio al mattino, quando non riusciamo ad infilare gli anelli, o quando ci sentiamo le gambe gonfie, pesanti, le caviglie in modo particolare, quando non riusciamo a chiudere la gonna, anche se l'ago della bilancia non si è spostato. L'idea è che il gonfiore e la tensione siano causati dall'acqua che in qualche modo ha sbagliato strada, invece che uscire si è fermata. Cosa può trattenerla, professor Battaglia? Può trattenerla il sale. Se nel nostro organismo noi introduciamo troppo sale, bevande salate con il clima caldo non sono l'ideale. L'altro è quello che noi impoveriamo sempre di più, il movimento. Molto importante l'attività fisica, perché contribuisce a riattivare e rinforzare il microcircolo, che col caldo si apre, si vasodilata, diventa più ampio il circolo e quindi lascia trapassare i liquidi dentro l'extracellulare, dentro la trama che c'è tra le cellule e il nostro albero che li mantiene in mezzo. Quindi un movimento ideale, passeggiate a piedi, bicicletta, nuoto, accompagnate da qualche stretching, ci fa riassorbire l'acqua che si è portata in alcuni distretti in cui non ci dovrebbe essere, e nello stesso tempo chiude il microcircolo e non ne fa riprodurre più in quelle zone. E a proposito di ritenzione, potevamo non chiedere aiuto alla dottoressa Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica? Dottoressa Serri, buongiorno e bentornata. Buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta. Dottoressa Serri, vogliamo localizzare il punto? Noi donne solitamente, no, quando guardiamo una donna magari in costume, in piscina eccetera, buttiamo l'occhio lì. Sì, e soprattutto si tende a fare paragoni, ma io sono così. Allora, poi ci si guarda e ci si confronta, certamente. La cellulite può essere legata anche a un edema, cioè a un gonfiore, a ritenzione di liquidi, ma non solo a quello. Però la ritenzione di liquidi, quello che noi possiamo dire, è che favorisce l'insediarsi della cellulite, perché questo edema rallenta anche il drenaggio e la microcircolazione. Quindi noi dobbiamo favorire tutto quello che favorisce il drenaggio, cioè l'eliminazione dei liquidi intrappolati anche a livello interstiziale, e favorire la microcircolazione. Va anche detto che le donne quasi costantemente soffrono di ritenzione idrica e di gonfiore nel periodo che precede il ciclo mestruale, sì. Quindi la famosa tensione premestruale, che si può prevenire per esempio prendendo anche delle sostanze molto naturali, assumere del magnesio, prendere dei dosaggi molto bassi di vitamina B6 e soprattutto anche enzimi antinfiammatori e diuretici, tra questi la bromelina, di cui è ricchissimo l'ananas, per cui io suggerisco molto ananas, iniziare il pasto con una fetta di ananas, prima colazione a base di ananas, aiuta moltissimo anche a sgonfiarsi. E poi dottoressa Serri, come abbiamo detto precedentemente, una battuta sua che ha avuto grande successo anche sul nostro Facebook, cioè fare molta attività fisica, perché quando il gluteo va su, la cellulite va giù, certamente. Se noi ci proviamo a guardare, proviamo proprio solamente davanti allo specchio a tirare sul gluteo, si vede che quel bozzettino cellulitico certamente scende. Quindi che cosa serve fare? Fare la muscolatura glutea. camminare in punta di piedi, lavarsi i denti in punta di piedi, fare esercizi che fortifichino i muscoli che poi tirano su le chiappe, insomma. E quindi è diventato il nostro slogan. Quando noi fatichiamo facendo attività fisica, e questo è un consiglio per le amiche, ricordiamoci, è lo slogan della dottoressa Serri: quando la chiappa va su, chiappa o gluteo, la cellulite va giù. Aggiungo anche un'altra cosa: lo stress, siccome quando noi siamo sotto stress le ghiandole cortico-surrenali, che lavorano moltissimo, fa produrre sia ormoni cortico-surrenalici come il cortisolo, sia l'ormone antidiuretico. Quindi lo stress fa anche gonfiare. È molto importante non avere situazioni stressanti, ma imparare a farsi fluire le situazioni, cioè a non stressarsi troppo. Lasciamo sciogliere ed eliminiamo. Allora, la chiappa va su, la cellulite va giù e lo stress si fluidifica via. Dottoressa Serri, lei è veramente saggia. Diventa un po' la nostra maestra di pensiero positivo. Invecchiare è un bene da questo punto di vista. Infatti mi piace moltissimo, perché sì, si può anche diventare saggi. Grazie alla dottoressa Serri, come sempre preziosissima. La potete leggere anche sul nostro Daily Lab. A presto, dottoressa. A presto a tutti. Buonissima grazie. Giornata. Abbiamo Bruna che ci chiama da Cuneo, Giuseppe da Messina, Fabrizio da Firenze. Buongiorno a tutti e tre. Bruna. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci. Volevo solo rispondere al quiz. Sì, proviamo. E se non sbaglio non dovrebbero contenere acqua. Mannaggia Bruna, no, invece ne hanno, anche le ossa. Alla prossima, alla prossima. Giuseppe da Messina, buongiorno. Buongiorno, intanto le ossa ne hanno il 30%, poi vorrei fare questa domanda. Ma lei mi ha dato la risposta così, non ho capito, scusi, perché c'è un rimbombo, Giuseppe? Dovrebbe abbassare la radio. Adesso sente? Sì. Bene. Beh, adesso dicevo, il 30% di acqua contengono le ossa. Bravo, bravo. Allora lei ha dato la risposta, e quindi la prima risposta, come abbiamo detto, che arrivava all'800240024, può ricevere a casa Sugar Box. Mi dica, l'ha detto en passant. Io vorrei fare questa domanda. Siccome io faccio attività sportiva, ecco, spesso mi capita che la mattina, dopo aver fatto attività sportiva, appunto, le urine sono di molto molto scure, scure, molto dense. C'è da preoccuparsi? Allora, perché, professor Battaglia, abbiamo detto prima che una cartina tornasole della nostra idratazione, della quantità di liquidi che assumiamo, per capire se è corretta, potevano sicuramente essere l'urina e il colore. Il nostro ascoltatore pone un quesito preciso che immagino interessi molti degli ascoltatori di Radio 24 che praticano attività sportive, di cui ci occuperemo tra poco. Professor Battaglia, quali indicazioni può dare a Giuseppe? Ma quello è un segno che la quantità di acqua che lui introduce non è corretta rispetto alle sue perdite, e quindi il nostro rene, che è un organo talmente intelligente, riduce il rubinetto, fa uscire meno acqua, quindi concentra più le urine trattenendola di più. Probabilmente quando noi facciamo attività fisica dobbiamo prendere quelle bevande che ci permettono durante l'attività fisica di reintegrare l'acqua in maniera veloce, e dopo di introdurre delle bevande invece che in maniera più ponderata, più lineare, più lunga nel tempo, ci permettono piano piano di reintegrare le nostre riserve di acqua e non far sì che il rubinetto del nostro rene venga chiuso e quindi le urine sono concentrate. Quindi, professor Battaglia, c'è un prima, un durante e un dopo? Certo. Per esempio, bere molta acqua prima potrebbe essere un trucchetto che gli atleti fanno, e che anche noi che non siamo degli atleti, che non abbiamo il nostro preparatore atletico, possiamo cominciare ad adottare per far sì che noi non abbiamo quella sgradevole di vedere le urine molto concentrate e molto colorate. Di non andare in riserva. Dobbiamo aggiungere qualche dettaglio in più per chi fa attività sportiva in certo, questo momento? Certo. La prima è quella che durante o prima dell'attività fisica noi dobbiamo prendere maggior quantitativo di acqua e con un poco di zucchero, che ci permette di assimilare velocemente l'acqua e lo zucchero durante l'attività o poco prima dell'attività. Mentre dopo, per recuperare, conviene diminuire la quantità di acqua e aumentare con frutta, verdura, una buona quantità anche di zuccheri che ci permettono di dare ai muscoli quel carburante che hanno perso durante l'attività. Fabrizio da Firenze, buongiorno. Buongiorno e grazie per la possibilità. La mia, diciamo, è una domanda molto singolare, cioè, nel senso, io forse ho il problema opposto, cioè io sono una persona che beve molto, ma bevo molto fin dall'infanzia, io bevo anche 3 litri e mezzo d'acqua. Allora, premesso che ho fatto tutti gli accertamenti e analisi che non dichiarano che ho nessun genere di patologia, se non il caso che è un fattore psicosomatico, ossia sì. È una forma di è un antistress per me bere acqua. E io ne bevo in quantità piuttosto molto eccessiva. Oltretutto ho fatto ora ultimamente di analisi per vedere anche i gradi di creatinina, bevendo molto e urinando molto, e perché chiaramente urino molto, c'ho una creatinina sullo 0,74. Io rivolgendo, oltretutto fra l'altro lavoro anche in ospedale, mi sono un pochino informato, i medici mi hanno detto, perché ho detto, Dio, ma devo ridurre un po' l'acqua, ma hanno detto, c'erò complimenti. Complimenti, le hanno detto Fabrizio. Volevo vediamo se le fa. Professor Battaglia, anche ma lei io gli farei doppi complimenti, perché il problema con le persone con cui consigliamo il tenore di vita di acqua che durante la loro giornata non riescono a bere, che lui riesce a bere, benvenuta questa cosa, perché il nostro organismo riesce poi a compensare tutta questa acqua che beve, non essendo fisiologicamente corretto ciò che fa. Io non apporterei nessuna modifica alla sua dieta. Cioè quello che beve poi elimina, giusto? Certo. E poi è un modo anche per... Altri usano altre sostanze per cercare di disincrostarsi delle tante ruggini che la vita quotidiana ci dà. Benvenuto che beve solo acqua. Beviamola e non sprechiamola, abbiamo capito, lo sapevamo sicuramente già, ma insomma abbiamo sottolineato quanto sia importante l'acqua per il nostro benessere, per la nostra salute, per la nostra vita, ma è importante anche per la vita del pianeta. In linea con noi abbiamo il nostro Maurizio Melis, alias Mr. Kilowatt e conduttore di Smart City. Maurizio, ciao. Ciao Nicoletta. Allora, è preziosa. È preziosa, tra l'altro... È una di quelle che si sta esaurendo. Noi adesso non abbiamo molto la percezione, per esempio nel nord Italia, Milano per esempio è piena d'acqua, no? Sotto c'è acqua da tutte le parti, però ci sono zone dove sta cominciando a scarseggiare, soprattutto nell'est. E tra l'altro una cosa a cui non pensiamo quasi mai è che consumare acqua è anche consumare energia, c'è sempre dietro un po' di consumo di energia, anche solo l'acqua del rubinetto, quando apriamo l'acqua fredda, sì. Comunque c'è qualche parte, c'è una pompa nel 90% dei casi che la sta pompando, quindi sta consumando energia elettrica. Quando apriamo l'acqua calda non solo c'è la pompa, ma c'è anche qualcosa che sta scaldando quell'acqua, quindi ricordiamoci che a volte risparmiare acqua è anche una forma diretta, diciamo, di risparmio di energia, e quindi insomma meglio proprio risparmiarla. Se poi vediamo come si fa. Bravo, qualche indicazione pratica veloce. Allora, veloce. Primo, ridurre gli sprechi, come si fa? Beh, intanto le docce, magari farle un po' più corte, poi il classico è la pentola dell'acqua della pasta, no? Si può usare per irrigare, ma io sai, faccio un'altra cosa, quando l'acqua è ancora bollente la rovescio sulle altre pentole, così me le sgrassa e evito di lavarle. Certo, quando ci laviamo i denti, ad esempio, quando ci laviamo i denti, non lasciamo il rubinetto aperto, lo chiudiamo. Ci sono un sacco, diciamo, di attenzioni che si possono avere, insomma, tenere poco rubinetti aperti inutilmente il meno possibile. Ma poi c'è una cosa che possiamo fare, e questa è la seconda, diciamo, regola, per aumentare l'efficienza nel modo in cui noi usiamo l'acqua. Ci sono dei rompigetti, cioè 2 minuti a montarne uno, è una cosa facilissima, che riducono proprio la quantità di acqua che esce, anche quando noi apriamo al massimo il rubinetto, perché ne esce molta più di quella che serve. È necessaria. E ci sono anche dei sistemi con l'aereatore, per cui l'acqua viene schiumata in un certo senso, per cui bagna molto di più la stessa quantità di acqua. Questo vi fa proprio aumenta l'efficienza nel modo in cui voi usate l'acqua, compresa quella calda, e risparmiate in questo modo. Dove si trovano? Beh, si trovano in qualunque, ormai anche direi nei supermercati addirittura, si trovano in qualunque centro di bricolage, e veramente basta una pappagallo e 2 minuti di lavoro per sostituire uno di questi, 2 minuti forse anche per tutto il bagno. Poi la terza cosa, sì, si può recuperare acqua, soprattutto se uno ha un giardino o anche solo un terrazzo con un po' di piante, ci sono tanti modi, banalmente basta metter lì un secchio quando piove e un po' di acqua la si recupera, altrimenti anche quello è un lavoro, diciamo, di un paio d'ore. Io sono un fan del fai da te, ma si intercetta il pluviale e ci sono dei piccoli serbatoi che si attaccano, è una cosa molto semplice, e lì uno può utilizzare l'acqua piovana, che tra l'altro non ha calcare e quindi è anche meglio per è perfetta piante. grazie a Maurizio Melis per essere stato con noi, buona giornata anche a te, ciao. Grazie. Stefano d'Arezzo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Volevo sapere, siccome è una bimba di 5 anni e mezzo, se la quantità, siccome vede un sacco di succo di frutta di una marca che non dico alla radio, senza praticamente gas, c'è un limite oppure no? Visto che è 50 Stefano, anni. Allo zucchero? No, praticamente... Ha guardato l'etichetta? Sì. È sicuro? Sì, di quello sì. Non ha aggiunto di Professor Battaglia. Bambini e succo. I succhi, abbiamo sottolineato tante volte, attenzione se contengono zuccheri, meglio dare quelli senza zucchero, ma ci possono essere delle controindicazioni? Sì, l'unica controindicazione che si può avere è quella di non integrare troppo, cioè frutta e verdure tutto con moderazione, tutto nel giusto equilibrio. Tutto l'eccesso, il nostro organismo non fa che poi iperlavorare, anche se non c'è zucchero nella maniera diretta, tutta la frutta è ricca di fruttosio e quindi noi andiamo a stimolare, specialmente in una bimba, andiamo a stimolare il pancreas per la secrezione di insulina per assorbirlo, quindi tutto nella giusta misura. Poco di tutto, troppo di nulla. Esatto. Quindi... il nostro organismo è in un equilibrio sempre precario, quindi più ci occupiamo di lui e meno ce ne preoccupiamo. Non serve preoccuparsi, bisogna occuparsi del nostro organismo, e occupandoci nella maniera intelligente e corretta certamente avremo una vita all'aria aperta, ci godremo anche questa stagione calda in maniera più equilibrata e più sana. Quindi ai bambini acqua, succhi sì, meglio Banco. Senza zucchero, spremute, frutta e verdura, ma ricordatevi di farli bere. Sì, tutto nella gamma, frutta, verdura, tutto in maniera equilibrata, senza eccedere in una o nell'altra, in maniera molto, molto saggia. La saggezza deve sempre imperare nel guardare il nostro organismo. Professore, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi per l'invito e buona giornata e buona estate. Grazie, vi ricordo che potete seguirci sul nostro profilo Facebook, potete scriverci esserebenessere@radio24.it. C'è sempre il questionario di Mangia con me, aspettiamo le vostre ricette. Saluto e ringrazio Roberto Scaltritti in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. Per oggi è tutto, bevete alla mia salute un bel bicchierone d'acqua e noi ci sentiamo domani.